domanda. Ma cos'è sto Top File? Per me è una cicles. Una cicles? Top File, il gusto che trabocca. Ma no, Top File è l'offerta dei supermercati Sigma. 5 prodotti grandi marche a prezzi super vantaggiosi. Vabbè. Su questo rullo di tamburi della sigla parte la quarta puntata dell'Accademia della Brusca, forse. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a, anzi buonasera, ma ci sta meglio, buongiorno buona a pera, buona pera a buona tutti. Pera. È il nostro idolo giurato. Fatto tutto. Ci portiamo. Siamo. Quanti minuti di ritardo? 7. Ma questa volta... vi giuro non è colpa nostra, anzi noi siamo veramente partiti in perfetto orario, ma abbiamo scazzato qualcosa con lo stream. Ci sta, ci sta. Oggi è, secondo me, anche la giornata del microfono aperto. Attenzione, attenzione, restate sintonizzati perché potreste sentire delle cose meravigliose, anche più belle dello spot che vi abbiamo mandato stasera, della Amanda. Ma che era quello spot? Il Top Five, ma cos'è sto Top Five? No, questo è un retaggio della mia tarda infanzia. Come chiamava la gomma da masticare? La come lo diciamo in emiliano, sì. Diciamo la cicles. La cicles. Solo a Bologna si dice la cicles. Che meraviglia. La cicles. Quindi... avrete capito che oggi si parla di dialetti. Ai ai ai ai ai, signora Longari, questa non ci voleva, anche perché io sono sicura, e lo vedo qui dalla scaletta scritta dalla Nina, che oggi ci farà diventare biondi. Biondissimi. Oh mamma, quanto anche... hai preso a questi esami tu? Minimo 31. Siamo stati tutti e quattro 30 lode. Pensa. Che schifo. Capito ragazzi? Allora io direi chi ci ascolta dal salotto vada in bagno a controllare se ha chiuso il rubinetto del bidet, chi ci ascolta dalla camera da letto vada in cucina per vedere se ha spento il gas e ci stia tanto, perché oggi questa ci ammazza. No, non è vero, non è vero. E non, almeno non vi ammazzerò come ha fatto con me il professor Verlato dell'Università di Ferrara. Nel 2008, con tutte queste belle pappardelle di cui vi parlerò oggi. Tra l'altro lo volevo salutare perché so che vive a Firenze ora. E ci ascolta. E spero tanto che ci ascolti. Grazie, professor Verlato. Fantastico. Tra l'altro una storiella buffa su di lui è stato che quando ho fatto l'esame, il primo esame, io ero tutta contenta, ho preso 28, e lui mi guarda e fa, signorina, è contenta del 28? Io, a voglia. Butta mi fa, via. Lo sa che io il primo esame ho preso 28 e sono stato 2 giorni a piangere nel fienile? Madonnina. Per cui pensate con che razza di nazista avevo a che fare. Oh mamma. Un saluto al professor Verlato. Ciao, Verli. Ma dai, facci una piccola introduzione di questo argomentino di nulla. Di nulla proprio. Perché abbiamo deciso di parlare di dialetti? Perché sia io che la Nenia... Yes. Non siamo toscane, ma veniamo da 2 regioni rispettivamente, la Emilia-Romagna per me e la Sardegna per lei, dove il bilinguismo, se così lo vogliamo chiamare, italiano e dialetto è diffusissimo, praticamente è il nostro codice. E questo fenomeno ha, se vogliamo snocciolare qualche termine, qualche terminologia tipicamente linguistica, è la cosiddetta parlata alloglotta o l'alloglossia, cioè è una State parlata... Attenti, non vi perdete una sillaba perché sennò siete rovinati. No, no, non è vero, non è vero. Però è una parlata in cui appunto c'è dialetto e lingua italiana che convivono e quindi dove c'è un sostrato diffuso come l'italiano su cui si instaura una minoranza linguistica differente, che è differente dal punto di vista lessicale, morfologico e grammaticale. Mm. Come introduzione. E perché parliamo di dialetti? Perché Radio Wombat è la nuova radio cittadina di Firenze, fiorentina. E quindi ci siamo chiesti, ma Firenze il dialetto dov'è? E soprattutto, è un dialetto o è un vernacolo? Ecco, questa è una bella domanda. Intanto lo chiediamo a un nostro carissimo amico. Questa siete meritati. Fantastico. Vi insegno come dovete fare un cocktail. Come dite cocktail a Milano? Dite cocktail. Noi invece a Firenze si dice cocktail. Allora, prima operazione per fare un cocktail dovete prendere questa, che è una brocca. Come vedete questa è una brocca con due tacchi. Prima tacca, seconda tacca. Come dite tacca a Milano? Dite tacca. Invece noi a Firenze si dice tacca. Seconda operazione, dovete comprare una bottiglia di vino. Andatela a comprare. Comperata? Noi invece ne piglieremo una a caso. Hai capito? Oddio, io ho demolito il microfono con un anello. Questo era l'antipaticissimo Massimo Boldi in una però delle sue migliori interpretazioni, dove... Pensa un po', questa era una delle migliori. Però a me la nenia fa ridere, perché? Perché è un po' la visione che abbiamo noi del fiorentino, più o meno, insomma. Per sì, cui... ci è aspirata, l'ultima T non si dice, la gorgia, sì, ripetuta ovunque. La borgia, la gorgia. Quindi, per definire, per sapere se a Firenze si parla dialetto o no, facciamo una piccola distinzione tra il dialetto e il vernacolo. Cos'è il dialetto? È un sistema linguistico vero e proprio che viene utilizzato in zone geograficamente limitate e che appartiene a un ambito socioculturale ristretto, ovvero è una lingua che diventa secondaria rispetto al sistema dominante che potrebbe essere l'italiano e ovviamente non viene utilizzato in ambito ufficiale o tecnico-scientifico, se no siete, come si dice, dei burini. Ecco. Il vernacolo invece è un linguaggio popolare proprio di un luogo, di una regione che è considerato specificatamente in contrapposizione alla lingua letteraria, e un particolare esempio è appunto la parlata toscana, cioè non ha un codice linguistico suo, ha semplicemente una variazione per esempio fonetica, ha una variazione lessicale, ma non è un sistema linguistico a sé. E questo già ce la dice un pochettino lunga. Perché? Perché il toscano e soprattutto il fiorentino presenta dei tratti distintivi, come appunto si sentiva nell'imitazione fatta da Massimo Boldi, quindi c'è la pronuncia spirantizzata della famosa C o C in posizione intervocalica, quindi abbiamo tutte le velari che vengono aspirate e a seconda dei luoghi abbiamo proprio anche il dileguo di una intera consonante intervocalica, quindi non si dice solo la asa, ma si dice pure andao, patà. L'ultima, è vero, l'ultima consonante che, esatto, che scompare, sì. Mamma mia. Quindi, tratto tipico di tutta la toscanità, però resta sempre l'idea comune che in Toscana non ci sia un dialetto vero e proprio. E, ci sono magari delle piccole intuizioni dialettali, soprattutto a livello lessicale, però si utilizza soprattutto nella comunicazione familiare, nella comunicazione con gli amici, ma è quindi un gergo, diciamo, tendenzialmente informale. Oppure viene utilizzato dai fiorentini in particolar modo quando vogliono fare simpaticoni, enfatizzano parecchio questa cosa. È anche vero che poi c'è sempre la discussione, ormai atavica, mai risolta, del fatto che comunque l'italiano, derivando dal toscano, abbia assorbito completamente ogni penso tutti gli aspetti morfologico, sintattico, fonetico. Però, se non erro, si rifaceva alla variante del toscano scritto, giusto? Variante del toscano scritto. Non volgare parlato, no, giusto? No, se non sbaglio è stato Manzoni a tirare fuori questa cosa con la colonna infame. Okay, e ha preso sì. la norma scritta del toscano. Solo la norma scritta, infatti. Yes. Quello che è rimasto poi del parlato è quello che si dice ora il volgare, probabilmente. Praticamente sì. Ok. Quindi guardate qua che perle di linguistica storica che vi tiriamo fuori. E invece c'è anche qualcuno che per distinguere il dialetto con la lingua dice che la lingua è come la parlata con l'esercito e uno stato, mentre il dialetto è quello povero che non ha protezione alcuna né dell'esercito né dallo stato, in pratica, perché poi formalmente sono la stessa cosa. Esatto. Io potrei anche essere d'accordo. Con no, sì, ci sta. Ce n'è un'altra, ma te la dico dopo. Ah. Adesso farei partire qualcosa da ascoltare di più giuviale. Vai, che ne vai, dici? Vai, facci gioviare a tutti. Vi giovio. Giovaci. Oh, ma sta andando a tira! Sul lume nel becco si scola, casiamo urbanenda a piccare su un'altra avvenida di accofro dei busi, le super sotto falsidate, brabica da chi non lo monto nel becca saldati, facciata per roba di strada, ma ti manca su di chi non ti vendimmo su come intemare Yubanna Imbrata, picca la tasta, la pipa, la fa che ti assale, basta che ti candese caso belli in un'escosa, protene, pro che non lo regga in su sambere aumenta sul lume nel becco, lui che te commenti su unica amico aumenta lo sambere, cacchi, lui vive te sicuro, ti abbarra sicuro e stanno rupolo, sei che canti, che desopine, sei come arena la musica chi corre come te sabato e unico in prena questo sul lume nel becco, cultura connota commenti pop questo dal core, scuola nudor da sotto sta chi mi meglio bisogno come che intendo questa vibrazione se commento una parte della persona e mi ha da giocare non mi posso dividere prusa pusse per acusto yoko piccane volte su bracco piccane volte su tombo piccane volte se effetto commenti questo che ti va che su bumbu ammenta su lui, ammenta su me ammenta su ne, ammenta su lume ammenta su lui, ammenta su me ammenta su ne, ammenta su lume non spesso io più da paragulas dei terrorista commenti su mas canuta musto questa musica di nuove contrarie non servi su pass devi passione serviti si agganano serviti una papalina della ne gusto mental non dimentica mai trappa ed è su lume nel gai da metto su lume sto un'abitudine buona da correre fa che da proprio le gente che senta che sopra che pulle che nuove persone che scola che gli che tanta sangue per donna papino che prende forza che per de merda che pega sa massa con dietro che pega la dolore ma ascolta quello su poco burla che insieme basta che lo che la barre se tu casa sola ma cano ti vio se non metta se no che a plangere mi scude sa con caso muro se chiede brigare pronti di spassare mi scude la forte se sotto chi chiede se metto ti fa che ti stare io penso ti fa che le mogere ballare musica che non ho senso io penso ti fa che le mogere ti tocca salmano sa tempo sa sala si prena si paghi le ghella ti rende di schiena che compa ne sei questo è il mondo che buca di fuoco una sombra se chiede se solo il tuo re darmi le miglie chi non so ti dato lo frutto chi non te ne costo si fa che giusto sono un giano pepa che turco vai che sul lupo vai che sul corvo tante gli abbi ne ha prodotto e chi cerca del rispetto perché ne conto tanto che tu Paola e destrazzamo giù vendo sul carro ammenta sul lume ne dego sta bomba che scopre ti vola sul braccio lasso sacchina poni in moto sa macchina e parti casa festa nuestra ricchetta si investe una graffa chi sono nata funky ragaga e papa musica etno sarda Non abbiamo concluso noi questo pezzo così a merda, era già così, lo giuro. È colpa di DJ Graff e Menir, il pezzo Pecorino Sardo. Ma pensa. Ci è arrivato un messaggio, diciamo via mail, da questa nostra amica che ci ascolta e dice che schifo Massimo Boldi. Hai ragione. Ma come sai, è colpa... certo, indovinate un po'. La nonna di una mia amica diceva sempre Totu Gorpa di Zinni Zinni. Zinni Zinni era tipo un brigante che viveva in una campagna vicino a un villaggio. Ogni volta che succedeva qualcosa si dava sempre le colpe a lui. Io sono Zinni la Zinni Zinni della situazione. Povero Zinni Zinni. Adesso ti chiameremo Nania Zinni Zinni. Totu Gorpa di Zinni Zinni. Chissà se questa cosa l'ha inventata lei, era sì, probabilmente l'ha inventata lei. Quindi è un po' matacchiona. Matacchiona, fa le neoespressioni, non sono neologismi. Sì. Comunque. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati a parlare un po' del caro dialetto fiorentino. Se è un dialetto o un vernacolo. In realtà potrebbe essere un discorso da ampliare, però oggi ci fermiamo qui. Secondo noi rimane più un vernacolo perché il fiorentino è comunque privo di una struttura grammaticale aliena, tra virgolette, all'italiano, o perlomeno se non aliena, comunque con delle varianti particolarmente distintive. Invece poi abbiamo alla faccia dei dialetti delle vere e proprie minoranze linguistiche in Italia, zan, zan, zan, zan. Che sono addirittura tutelate per legge. Allora, la prima è la cosiddetta varietà italo-albanese, l'Arberesh, che è una parlata diffusa in 50 piccole comunità, di cui 41 sono addirittura sedi comunali nella zona tra l'Abruzzo, il Molise, la Basilicata, la Puglia e la Calabria. Si dice anche in alcune punte della Sicilia, tutta non la mi costa, risulta. Tutta la costa dell'est praticamente. No, perché anche dalla parte dell'Abruzzo, anche la parte e della interna. Verso la Campania. Ah, anche. Okay, sì. Ma sono macchie sparse, un po' macchie sì. di leopardo questo fenomeno. E sono comunità che derivano da antichi centri albanesi. Erano delle vecchie colonie dell'Italia meridionale che si formarono dopo il 1468, anno in cui morì Giorgio Castriota Skanderbeg, che era l'eroe della resistenza albanese contro gli ottomani, quindi si parla ancora di crociate contro i turchi. E così si è diffuso nella parte meridionale del territorio italiano un linguaggio albanofono, proprio nato dalla volontà di questi popoli di sfuggire all'impero turco, per cui scappando dall'Albania si sono rifugiati nella costa, diciamo, gemella. E il riconoscimento ufficiale di questa eredità culturale, che è antichissima, qui in Italia è arrivato solamente con la legge 482 del 99 sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche. E questa è una delle tante, abbiamo il ladino, abbiamo anche alcune parlate nella zona dell'Alto Adige, quindi non solo il ladino ma anche lingue germaniche, che non è proprio il tedesco ma ci sono dei dialetti che si avvicinano molto al germanico antico, e abbiamo anche qualcosa in Val d'Aosta. E non solo, la più grande comunità linguistica italiana... È quella sarda. Sì, infatti, è per l'appunto anche lei è stata coinvolta da questa legge del 99. E il sardo praticamente è l'unico che non ha mai avuto una coina regionale. Si sono allora fermate nel tempo due varietà sovralocali, che sono quella del nord, la logudorese letteraria praticamente, e la campidanese generale, che è quella del sud, derivante più o meno dal dialetto di Cagliari, dal dialetto cagliaritano. In relazione all'uso, tutta la lingua sarda è in pieno una situazione di bilinguismo. Bilinguismo nel senso che si utilizzano entrambe le lingue con spontaneità, quindi non è un passaggio di registro, ma è un vero e proprio passaggio linguistico da una lingua all'altra, in tutte le situazioni quotidiane, formali, informali, eccetera. In un rilevamento della regione, su 2.700 soggetti in tutta l'isola, il 68% dei parlanti ha dichiarato di saper parlare almeno una sua varietà locale, insomma con una buona percentuale quindi. E questa cosa appartiene anche a Regione Veneto, Emilia, più che Romagna. Confermo. Giusto? Sì. E Piemonte. Questa è un po' la situazione. La situazione italiana sui nostri dialetti, che sono effettivamente quindi non passaggi di registro, come diceva la Nenia, ma veri e propri passaggi linguistici. Passaggio di registro che è il code switching, no? Il code switching è quello. Sì, in genere il code switching avviene proprio tra la parlata formale e l'informale, e potrebbe essere anche il caso del vernacolo in realtà. Sì, okay. Invece nelle nostre zone si passa da un codice linguistico a un altro. Ok, perfetto. Avete capito? Secondo me ne hanno abbastanza, dobbiamo dargli qualcosa da ascoltare. Vi facciamo respirare. Sì, un pochino sì. E a questo punto gli proponiamo un pezzo. Ah, io introdurrei questo pezzo così poi passiamo ad altri dialetti, eh? Siete pronti? Vai, Nenia. Sì. Sotto timba di tempeste, però qua c'è manifesto. Ehi, ci voglio! Zazzi, strida, onesto, onesta. Sei, spassa, Zazza, onesto, onesta. Sarà che sotto verso il timbro di tempesta, per qua ci manifesta. Questa, in una dimensione inversa, al mondo raccontato dalla Rai e Mediaset. Onesto, onesta, sarà che sotto verso il timbro di tempesta, per qua ci manifesta. Questa, in una dimensione inversa, al mondo raccontato dalla Rai e Mediaset. Rai e Mediaset, ma non mette l'intelletto, net mette l'etichetta, come io, come YS. Che adesso mostra a destra e poi a sinistra, sembra un sess. Che adesso la politica del potere da mazzetto. Ninder, aspetta, bastardo maledetto. Connette non mi flash alla TV non decreta. Quando la mass smette, de cancichi che è il doverso. Contesta e manifesta, resta forte e manderes. Contro informazione, aggregazione, ninder, selezione. De colore, media ancora, se l'idea diventa azione. Ci metto cuore, parole pa' passione. Ognuno per te muove, passi di rivoluzione. Ci prova io, ci prova, te muove io, mi muove. Fuori dagli standard, la TV è l'informazione. Ci vuole una reazione, per cancire sta situazione. Piglio posizione. Onesto, onesta, sarà che sotto verso il timbro di tempesta, per qua ci manifesta. Questa, in una dimensione inversa, al mondo raccontato dalla Rai e Mediaset. Onesto, onesta, sarà che sotto verso il timbro di tempesta, per qua ci manifesta. Questa, in una dimensione inversa, al mondo raccontato dalla Rai e Mediaset. Un secchiano pa' pupette, grande fratello 17. Una tardona per subrette, ci proietta tre chefette. Un fatti caffè fetta, pur carica ci trasmette. Svegliatevi al più presto, avete una bacchetta. Ma in fondo in più che vuoi, ora che vincere tu puoi. Milioni di gettoni d'oro con i tuoi ad affari tuoi. Uomini e donne vuoi, è il trono che si sogna. Ma i miei amici di Maria fumano l'erba nella bonga. Esci da sta menzogna, miti di gomma. È il tuo spazio, ciò che serve, cerca e trova la tua forma. Giorna, giorna, materia grigia sonda. Essere invece che apparire, questo è ciò che conta. Cont, i passo da secondo fino a oggi. Sempre pa' stessa cape con l'idea che mandi a forma. Cont, chi l'ha sanato in bronte. Fuori dal moderno, dagli schemi dei cazzetti missi in onda. Onesto, onesta, sarà che sotto verso il timbro di tempesta, per qua ci manifesta. Questa, in una dimensione inversa, al mondo raccontato dalla Rai e Mediaset. Onesto, onesta, sarà che sotto verso il timbro di tempesta, per qua ci manifesta. Questa, in una dimensione inversa, al mondo raccontato dalla Rai e Mediaset. Onesto, onesta. Qua abbiamo sentito un pezzo rap pugliese di Zazza, DJ Spass e non so chi altro. Me li ha fatti conoscere il nostro pugliese addetto ai modi di sdire, perché signore e signori, oggi parte una grande novità dell'Accademia della Brusca. Abbiamo il bruscone, il quizzone della Brusca, signore e signori. Oggi vi faremo ascoltare tre modi di sdire in, a questo punto almeno la provenienza la diciamo. Sì, dai, sì, un aiutino. Sì. Un dialetto pugliese, rimaniamo sul vago, senza non dire vi diciamo che divisione del pugliese. E ve li faremo ascoltare e voi alla nostra mail postawombat@insiberia.net ci dovete dire che cosa significano, in quali contesti si usano, se poi riconoscete anche la voce del nostro leader di opinione in materia di dialetto pugliese, bene, fate nomi, ma soprattutto cognomi. E scriveteci quindi chi vince 10 boccali di birra. Che gli spediremo attraverso un buono sul suo indirizzo mail. Sì, sì, sì, manderemo a casa. Mi raccomando, fatevi trovare pronti. E soprattutto a stomaco pieno. Per l'appunto. Se volete. Forse. Allora parte il partiamo col primo. Vai, il primo bruscone. La figlia muta la capisce solo la mamma. Lo facciamo risentire un'altra volta. La figlia muta la capisce solo la mamma. Questo è facile, insomma, non c'è bisogno. Questo era il più facilino. Diciamo questo vale tre pinte. Questo ce lo giochiamo per tre pinte. Ok. Poi abbiamo... Quando chiovo metto l'acqua alle pucine. sei pinte. Lo facciamo risentire. Quando chiovo matto l'acqua alle pucine. Io direi che questo è quello da 10 pinte comunque. Sì, eh? Io sì, un po' l'ho capito. Sì? No, allora lasciamo 6, vai. Facciamo 7. Partiamo, partiamo, partiamo col prossimo. Chiacchiero con la zeta e poi ci addormo. Ovvero? Chiacchiero con la zeta e poi ci addormo. Quindi, signore e signori, ripetiamo, dove scrivere le risposte del quizzone della brusca? postauomo@insiberia.net. Mi raccomando, vogliamo, dovete partecipare. Risposte. Allora, ripetiamo le regole del gioco. Chi l'ha detto? Nome e cognome e nome in codice, possibilmente. Esatto. Poi, da dove proviene il dialetto? Sarebbe, insomma, un buon punto in più. Vi abbiamo detto pugliese, ma dovete indovinare quale, da dove, precisa cadenza. E poi cosa significa, ma soprattutto in quale contesto si usa. Non fateci la traduzione letteraria, per favore, ne abbiamo già parlato. I modi di dire non si traducono e basta. Bisogna anche capirne il senso, esatto, e l'utilizzo. Esatto. Bene, bene, bene, bene, siamo a un buon punto. Allora adesso vi farò sentire un pezzo divertentissimo in dialetto maremmano e questo mi costringe a darvi un'anticipazione. Allora, come sempre noi abbiamo illustri ospiti. Si sa, d'altronde l'Accademia della Brusca è famosa per essere come il perno abbiamo le ambasce linguistiche, le ambasciate linguistiche, no, i vernacolari. Signore e signori, non potete capire. Avremo un ospite sensazionale che ci verrà per l'appunto a raccontare un po' questa faccenda del maremmano. Ma prima dobbiamo ascoltare un pezzo importantissimo. Collo! Collo! Au! Au! Bimbo! Bello il micittino, quanto sei cresciuto, bada che billo lungo e sei diventato. Inguattati si sorte, mettiti bardato, c'è un vento di accia, senti, e son marmato. Entra al ristorante, verso al cameriere, buonomo che si vuole, qualcosa da biasciare. Per primo due tortelli, ma che non è arranzagnolo, cignale, boccia di vino, cascio per il figliolo. La mia moglie che mi dice, sto posto è mortorio, mi parte la coltella, mi ingoro anche il cimorio. Inguastito come un micio, inizia a smadonnare, non basta un stalernia, via valle spazzolare. Senti qualche conto, un semi sorda, maremma impestata 50 racchiorba. O Nino stai boncito, o che sarà oddio. Niamo se no con tonfo e fa uno spicinio. Guarda se ti muovi, reppa con le mano, su non fare costo, forza strulloniamo. Canzo questo ritmo, mi garba il toscano, ma meglio palaia. Questo è il mare in mano. Faccio una corrigia, centanfo e saffetta. Ho sciabordito, portami la quitta. Scendi giù un cortile e c'è una cacata. E do la via all'acqua e dai una sistolata. Mentre che ero lì alla meria, bello bolso, il coniglio l'ho lesto, mi passa e fa uno stolzo. Per poco non bucalto al muro e fa una cretta. Leveti di himma, fatto veni una leppa. Collo e bell'ovo, qua come gadollo. Per me le vogliolo e soffiati quel grollo. Cosa da boticare con quella bocca becia? Sei conce pure brutto e pari un rutto in chiesa. Guarda se ti muovi e reppa con le mano, su non fare gusto, forza strulloniamo. Danzo questo ritmo, mi garba il toscano, ma meglio boncito. Questo è il mare in mano, muovi quelle mano, forza strulloniamo. Canta insieme a noi il rap mare in mano. Danzo questo ritmo, mi garba il toscano. Allora un apito, una sega. Questo è mare in mano. Allora, innanzitutto volevo dire che ci è arrivata una risposta al bruscone di questa nostra amica che ci scrive dicendo: era padre Pio dalla sua città natale e diceva che chiacchiera con le tipe per rimorchiarsele. Amica, non hai vinto nessuna pinta di birra perché ci sei andata vicino, ma c'è qualche errorino. Però ti comunque manderemo un premio di consolazione, almeno insomma, per l'originalità dell'autore di queste battute, che è padre Pio, che è notoriamente trapassato. Dopo le blasfemie... Blasfeme, queste della brusca. Ecco, avete sentito una voce nuova, che è la nostra ospite, la Roscia Maremmana. Cittini, buonasera a tutti. Eccola, eccola. Perché sei qui, donna Maremmana? Per l'appunto, perché Maremmana, o perlomeno d'origine, diciamo così, come voi, anche se molto prima di voi, strapiantata a Firenze. Ecco. Quindi a differenza vostra io... non mi diverto più di tanto a cercare altri dialetti, sto cercando ancora di farmi perdonare dai maremmani perché non sono una maremmana e farmi accettare dai fiorentini perché non parlo fiorentino, quindi sono un... né carne né pesce. Esatto. E comunque no, siccome mi è piaciuto molto questo pezzo del rap maremmano che ho sentito poco tempo fa in realtà, mi è piaciuto anche il modo in cui l'ho scoperto. Cito. mi venne raccontata l'esistenza di questo pezzo da alcuni colleghi perché oltre all'origine mi capita di lavorare spesso a Grosseto, che è notoriamente la città più brutta d'Europa, mi dicono. E vabbè, dai, io gli voglio bene un pochino, così va bene, dai, cerco di fare la maremmana, appunto, né carne né pesce, quindi sì, in effetti non è una chissà quale città, però ci piace. Però diciamo che il maremmano perlomeno ha motivo di essere discusso. Giustamente. E la versione del rap mi ha fatto sorridere proprio perché addirittura non canta niente, sono una serie di accozzagli, abborracciate su una storiella qualsiasi per poter dire quasi tutti quei termini che sono tipici maremmani. E io me li sono, mi ha fatto anche un po' strano perché tanti li avevo completamente scordati, li ricordavo tipo solo da... quale? Allora, qualcuno me l'ero portato dietro e non mi è stato mai passato in tutti gli anni che sono qui. Tipo. Allora, una cosa che dicevo sempre era lesto. Lesto si dice anche in tipo svelto? Sì, esatto. Però comunque venivo sempre guardata con stranezza. Ho riconfermato oggi che in realtà non è solo maremmano, è comunque di uso più toscano e maremmano, questo sì, ma è identificato come significato anche da altre, in altre parti. Io adesso lo conoscevo, vedi? Non lo dico. Non lo dici, però lo intendi. Esatto. Invece no, a me ogni tanto i fiorentini mi guardavano come cosa hai detto, però vabbè. Che ti ho detto? Che ti ho detto? Poi un'altra cosa che dicevo sicuramente più da piccola, che ho perso e che riacquisto ora frequentando di più Grossetani, è il famoso l'incipit della canzone che è au, che non è dire niente in realtà, ma è dire tutto, è un po' come il che te lo dico a fare. Sì, è proprio au che lo usi, è un'esclamazione, è un'interazione, può diventare un sostantivo in dei momenti se lo decidono. Però ecco, un è un nome proprio di persona anche. Sì, au. No, di cane sì. Eh? Di cane sicuramente sì. Se vai a cercare au su internet però trovi il lupo che fa au e tutte le parole possibili. Non trovi il mare. No, lo trovi, ho trovato un interessantissimo sito in questi giorni facendo un po' di studio che tratta proprio di questo, parole, detti e storielle maremmane. Comunque, un'altra esclamazione che io adoro e che ho ripreso in vecchiaia è collo. Collo! Che è un'esclamazione di meraviglia, ma tendenzialmente tipo, scusi, due coppie d'ova, quanto so, 3 euro, collo! Cioè, è un po' gli sticazzi, sì. Un po', non è un'esclamazione sempre... pochino poco serena, ecco, diciamo, non mi piace quello coglioni. Che ho sentito, che coglioni. Oppure un'altra, perché io c'ho la lista che mi sono fatta dalla canzone, no? vabbè, lesto, sigado. Ecco, un'altra cosa che mi piace tanto era Gadollo. Comunque, questo è qualcosa di sconosciuto. Gadollo è oltretutto è rafforzato, perché non bastasse. È come dire, bello Gadollo, se lo dovessi dire di un essere umano che magari è sovrappeso, vuol dire che è bello pieno. Se lo dovessi dire di un cocktail estremamente forte, è bello Gadollo anche il cocktail, non è che non si fa tanta distinzione tra cose o esseri umani. No, due termini di cui si usa uno per le cose e uno per gli esseri umani, che diceva anche il nostro rap, sono diaccio e marmato. Perché, infatti lo diceva, fa un ghiaccio fuori, cioè, non ricordo cosa gli si è ammarmato a lui, però comunque marmato, cioè i piedi marmati, fuori un ghiaccio cane. Ecco, queste sono le due tipologie di uso, però sono entrambi freddo, ghiaccio, ghiaccio. Si addice perfettamente a questa stagione. Esatto, esatto. Una cosa che ho trovato tra le parole della canzone che ho cercato, che mi ha fatto divertire da morire, ma non tanto per il significato, ma perché cercando così un po' random in internet, ho trovato una versione di descrizione della parola altrettanto, secondo me, maremmana o comunque un po' antica. È bogliolo. Bogliolo, che è un aggettivo, e la definizione che ho trovato è questa: l'uovo stantio e guasto, e che scuotendolo si sente sguazzare il guscio, si dice che egli è bogliolo, e per similitudine si dice che uno ha l'uova bogliole quando sdragiona e sproposita. Fantastico. Cioè, se stai di fuori hai le uova bogliole, e uno che si senta botezza di capo dice che egli ha il capo bogliolo, o che si sente bogliolo. Vabbè, insomma, mi ha fatto troppo simpatia il fatto che si cercasse di spiegare veramente una parola gergale in una maniera gergalissima. Comunque sì, bogliolo vuol dire questo: si dava all'uovo e poi si dà ai grulli. Altra cosa: bimbi e grulli, chi li fa se li trastulli? Infatti. Ora, dopo ragioniamo anche di questo tipo di attività. Una cosa infatti simpatica, secondo me, è spesso l'appropriarsi di termini che riguardano gli animali, o perlomeno l'animale allevato, nel senso non è, il bardato, quando si dice bardati appunto, perché viene dal cavallo che era provvisto di finimenti. Ragazzi, siamo in Maremma, butteri, siamo sì, butteri, ancora, cioè, vi spiego una cosa, noi in Maremma ci fanno nascere sul cavallo, qua usano lo schiaffetto sul culo per iniziare a farti respirare, e a noi ci buttano sul cavallo e via, così appena nati, se prendi la redine e respiri, se non prendi la redine non respiri, e da lì si vede se avrai un futuro o no. In Maremma si agisce un po' così. In Sardegna noi ci mandano a badare le pecore. No, no, noi... In Emilia ci mandano, non so, nel porcile con i maiali, visto che abbiamo quelli, oppure a mungere le mucche. No, noi siamo un pochino più ignoranti da questo punto di vista. Comunque, bardato c'ha un po' il significato, sia in italiano l'ha preso, nel senso in quello più generico, più usato, si viene usato per un modo scherzoso di dire ti sei anche un po' acchittato eccessivamente. Anche questo è un uso maremmano, però noi come dice anche il rap, lui lo interpreta in un termine: copriti bene, bardati, cioè, che secondo me è più legato infatti al cavallo, che era finimenti, su sella, tutta una serie di cose che coprivano. Comunque noi questa cosa di rifarci a termini appunto di animali con cui abbiamo avuto a che fare in continuazione storicamente, maremmani, il cavallo, il buttero. E poi ce n'era anche un altro. Qua dalla regia mi chiedono se ho un modo di dire maremmano. Porca paletta, non ce l'ho così a bomba. Proprio un modo di dire, no. Un proverbio. Non ce l'ho, non ce l'ho. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Nella nostra agendina dei pensieri. Questo mi documento comunque, stai scherzando, mi documento e manderemo un post per farvi sapere tutto quello che abbiamo trovato in più. Se vi viene in mente un detto maremmano, lo conoscete, scriveteci su Twitter o Facebook o una mail. Quindi postawombat@insiberia.net, twitter.com/radiowombatfi come Firenze, facebook.com/radio-wombat-firenze. Quindi aiutate l'Accademia della Brusca, aiutate la Maremmana a trovare un detto valido. Un detto maremmano. Un'altra parola che piace tanto a me è bescio, che ha un significato linguistico che è appunto un altro animale, è un lombrico, è un verme. Però viene usato nella canzonella con la tua bocca becia, con la tua bocca zozza, comunque la tua bocca becio fa anche... Il mio nonno era sovente usare becio ogni volta che guardava il telegiornale, c'era il suo modo per dire che schifo, che schifo, che schifo, e guardava fisso e becio, becio. Questo intercalare era tipico del telegiornale delle 8. Comunque, che altro? Ah, vabbè, il boncitto non è esclusiva maremmana, così come il citto. Mi risulta sia anche aretino, giusto? E aretino, si va anche secondo me un po' verso Siena. Inguattati, vogliamo dire inguattati? Sì. Perché allora, anche qua, questa è carina perché nasce da un errore linguistico del termine inquattare con la Q. Quatto, esatto, e viene proprio da quatto, ovvero nascondere prima che gli altri lo vedano, non è un nascondere a posteriori, è sempre un nascondere a priori, no? Esatto, a priori. Esatto, ed è carino perché inguattati ovviamente è un errore di una forma che già era dialettale, perché comunque quatto era già ritenuto dialetto, e in questo senso è diventato inguattati. Poi vabbè, ora non so bene, ma quatto, tu che sei la dottoressa, era dialetto di che? Perché qua lo dicono con molta convinzione. Quatto, sempre toscano? Io penso sia sempre toscano generico. Toscano generico che è entrato però in un'espressione particolare. Vedi, non lo diciamo in italiano, quatto, come si dice quatto. E noi maremmani riusciamo a comunque fare un botto di errori anche su quello che già abbiamo comunque fatto filtrare dal tempo. Vabbè, a me mi piace tanto anche Mingoro, che in realtà non l'ho trovato, nessun maremmano se lo attribuisce, però in realtà Mingoro è semplice, è proprio farsi la gora. Qualcuno ci sta suggerendo un detto maremmano. Sentiamo. Ci hanno suggerito, ho fatto sale o salino. Ah no, allora, io non sono andata a scuola a Grosseto, non ho mai avuto l'opportunità di fare salino o sale a Grosseto o zone del genere, quindi non lo so. So che io a Firenze dicevo ho fatto forca, ho fatto salino al massimo, quella la riconoscevo, sale non l'avrei mai riconosciuto. Invece ci dicono salino. Chi ci manda questa segnalazione, diciamo, è credibile perché è un follonichese, per cui è abbastanza maremmano. Ah dai, ma aspetta, la chiorba è bellissima, io l'adoro perché questa è in famiglia mia, mio padre ha continuato a usarla sempre anche quando mi insultava, non c'hai un tubo nella chiorba. Sì, e poi zucca. Esatto, è la testa, scusate, e la chiorbata. Perché che è bella, è proprio. Io adoravo la chiorbata perché quando ti batti una testata e ti fai male, dire ho battuto una chiorbata mi dava molta più soddisfazione che dire ho dato una testata in un momento di dolore in cui hai bisogno che qualcosa ti pieni, qualche altro. Cioè, ho battuto una chiorbata! Dalla sì, era piena, esatto, era. Ti dava una mano un po' a smaltire quel brutto momento. Lo stolzo ce l'abbiamo anche qua. Lo diciamo anche qua, lo stolzo, la paura, lo spavento. Io, vabbè, non sono toscana, tu però no. Mi è completamente nuova. Lo stolzo è un balzo improvviso, tendenzialmente di persona, addirittura si diceva della lepre, la lepre ha fatto lo stolzo perché cacciandola se ne scappava con il balzo. Poi vabbè, sciabordito, sciabordito per quanto il significato sia di comune uso, nel senso che ha poco cervello, il grullo di nuovo, però sciabordito io vi sfido a sentirlo da queste parti. Guarda, potremmo lanciare una moda. Guarda, ecco, arriva una consultazione in diretta di un libro. Allora, e infatti, da lì in poi è tutto un andare. Lo stolzo, sobbalzo improvviso dovuto a paura a qualcosa di inatteso, anche sdolzo o sdolzato, vabbè, questi sono, sì, perché poi ovviamente la Maremma, essendo molto variegata come, secondo me, un po' come struttura territoriale, ci metteva anche poco in un raggio chilometrico non di chissà quanto a cambiare parecchio, magari le stesse, appunto come prima, no? Le stesse già tramutazione di un dialetto la ritramutava ancora, cioè se vai in montagna anche solo sull'Amiata hai delle parole simili ma modificate, sono modifiche diverse, però sono in genere queste sono cose che derivano dall'essere più o meno isolati rispetto a una zona centrale. Esatto, questo sì. La mancanza di contaminazione. Sì. Avete capito cosa vi stiamo tirando fuori? Poi aspetta, la Maremmana è piena di risorse. Sì, ora infatti a un certo punto stoppatemi perché qui ce n'è un sacco di... vabbè, lo spicinio, ecco, anche questa è, lo spicinio? È una strage, è una carneficina, un devasto. Infatti quando dice che si sta alterando fa uno spicinio. Questa è un'altra parola che per tanto tempo invece anche familiarmente la usavamo e mi era rimasta nel mio bagaglio. E poi ovviamente... questa è sicuramente la mia preferita. Il famoso ma meglio. Allora, questa sì che si va di monte e di riviera. Allora, il ma meglio veramente spazia dalla montagna alla costa della Maremma con varie un po' leggere differenze. Siamo quasi ai confini con Livorno, esatto. Questa. Per esempio, io sono grossetana, in Grosseto città il mammello palaio, perlomeno nella mia infanzia a casa dei miei nonni, il mammello palaia era parecchio, era una parola di effetto e molto usata. Cosa vuoi, mammello, anche qui, non è proprio il come di... Non è come il te lo dico a fare di, ma che te lo dico a fare di prima, no? È più un'esclamazione, anche questa, però sempre negativa. Cioè, che poi, appunto, una cosa semplicissima. Vieni al cinema stasera? Ma meglio, no? Che venga a vedere quel troiaio, capito? Ecco, sì, però è veramente un intercalare continuo. Ma meglio, mi mette tanta felicità, perché è una di quelle parole senza senso che puoi dire in ogni momento e avrà comunque una sua, un suo essere in quella situazione lì. Io ho deciso che lo adotto da oggi. Adotti. Così potrò dare contro alle persone senza che queste se ne accorgano troppo. E oltretutto rimanendo anche un po' perplesse, cosa mi ha detto? Perché ma meglio? Bene. Quindi abbiamo fatto un bel viaggetto che non è ancora finito nella zona grossetana, dall'Amiata fino alla costa, ai confini con Livorno, diciamo. Però non abbiamo soltanto il grossetano. Infatti vi abbiamo fatto una piccola citazione da un libro che ora vi presentiamo per la nostra rubrica di Ti consiglio il libro. Una fionda. Ma è meglio una fionda che una pistola, no? Un mattone. E i libri indo ce l'hai? I libri? Ah, ma ce l'ho tutti qua ce l'ho. E che ce fai con tutta sta roba? E ce lo so io. E ce lo so io, dice Pierino. Il libro della giornata... Comunque voi siete malate. Sì, cioè, sì, l'Accademia della Brusca veramente è un posto da frequentare. Io invito tutti a cercare di diventare esperti di qualcosa e venire qua. Perché... diventerà l'Accademia della Frasca. Degli infrascati. Bene. Il libro di oggi è La parlata di Montepulciano dintorni. Non abbiamo trovato nulla di troppo vicino alla Miata, per cui ci siamo accontentati e abbiamo detto, vabbè, si fa qualcosa di senese. Ma sì, Aretino. Ora, per una maremmana stare qui mentre fanno questa cosa è quasi un affronto, in realtà. No, cioè, farò finta di niente, resterò seduta e tranquilla. Siamo però sopra ogni campanilismo. Au! Ma meglio. Ma meglio. Ci tengo a precisare, visto il contenuto del libro, che non si dice libro, ma si dice libro. Libro, libro. Esatto, il libro, ora ce lo presentano, libro, vadi. Vado, è La parlata di Montepulciano dintorni, come si è detto. Wow, no, l'abbiamo aperto ed è veramente un forziere, un scrigno di parole. Libro di Carlo Lapucci, editori del Grifo. Penso che il volume che abbiamo qui in trasmissione sia, non è troppo antico, ma è dell'88, però in qualche bancarella, se vi interessa, lo trovate. È un bel tomone, siamo sulle 440 pagine. Oddio, collo! Collo! Dove troverete espressioni veramente colorite, come me le stanno indicando in diretta, il birignoccolo, il bernoccolo, oppure vediamo un po', me ne indicano un'altra, abbadessa, che è come? Appunto, abba, questo dicevo, è troppo banale, li stiamo cercando per voi in diretta, perché abbrusca, abbrustolire, tostare, abbrusca il pane, non me ne vogliono i senesi, gli aretini all'ascolto. E insomma ne abbiamo veramente tantissimi. Briaco come un tegolo, si è caricato una bella scimmia. Ce ne sono davvero, se vi volete divertire. Birribissaio, confusione, chiasso, che è tutto questo birribissaio? Padrone del birribissaio come padrone del baccellaio, che vuol dire? Ne abbiamo veramente tantissime in queste 440 pagine che vi consigliamo. Quasi quasi io me lo compro questo libro, perché appunto da quelle parti si dice quasi. E nulla, siamo praticamente giunte alla fine della puntata. Quasi. Quasi giunte alla fine della puntata. In realtà, prima di salutarci, io vorrei sentire anche dalla mia collega Nenia qualche cosa sul sarto, ovviamente. Ah, ovviamente, perché abbiamo parlato di Maremmano, di Toscano, dell'Emiliano parleremo la prossima volta, con buona probabilità, e oggi invece la degna conclusione deve essere fatta dalla Nenia, con una faccenda linguistica sarda. Allora, io ho solo portato dei modi di dire divertenti, più o meno. Ho eliminato tutti quelli che contenevano bestemmie, cristi, santi, madonne. Il 90%. E quindi il 95% dei modi di dire delle frasi sarde. Ma ho delle cose divertenti, tipo... No, mi devo preparare, questo è difficile. Indome suverreri schironellinna. Che sta a dire a casa del fabbro, lo spiedo è di legno, ok? Oddio! Io non so se c'è l'equivalente in italiano, che abbia più o meno questo senso. Sarebbe curioso rintracciarlo nei vari dialetti. È un po', non è la stessa cosa, ma è molto vicino a chi ha pane non ha denti, però... Qui entra nello specifico della famiglia che dovrebbe avere questa cosa qui, cioè dovrebbe essere routine averla, invece proprio loro non ce l'hanno. Chissà, magari in qualche altro dialetto esiste qualcosa di simile. E simile a questo abbiamo anche Fillegattu Cassaropis, che sarebbe il figlio dei gatti caccia i topi. E questo si dice anche in italiano. Sì, però penso che in realtà abbia da dire, non lo so, abbia qualcosa a che fare con questo detto qui. L'ho trovato sempre molto vicino come senso, però onestamente non ti so dire tanto di più. C'è un corrispettivo italiano, non mi viene in mente ora, ma c'è un corrispettivo. Poi ce n'è uno bellissimo che dice, allora, le giumenti, sa morti, su vamini, stassa se sa guerra, e sta a significare brutto come la morte, la fame, le tasse e la guerra. Questo è il più bello di tutti. Ce ne manca una, è molto simile, in emiliano, si dice brut ac mei debit. Brutto, wow, come i debiti. Bellissimo. Ecco, quindi perfetto, andiamo a braccetto. Perfetto. L'isoglossa si unisce. Yeah! E in questo, le giumenti, sa morti, su vamini, stasa de sa guerra, compaiono tutti gli articoli determinativi in sardo, che a differenza dell'italiano hanno anche l'articolo neutro come in spagnolo. Quindi il su sta per il e lo, ma anche il su del, bravissima, del catalano, che davanti a un pronome, davanti a un sostantivo, creano come qualcosa di un significato generale astratto, tipo su vamini è la fame in generale, su miu sarebbe la traduzione letterale il mio, ma sta a dire ciò che è mio. Poi, che ne so, su vappai, il mangiare, sempre però in senso generale astratto. E poi ci sono delle varianti di, per esempio, ecco, questo è interessante. Ora ve lo leggo in logudorese. Vai. Su corpo azos corbos, s'anima azos demonios. Ok? Quindi abbiamo articolo determinativo plurale, sos. Lo vediamo invece in campidanese. Su corpo ais corbo, su s'anima ais demonius. Quindi abbiamo sostituito is e sos e abbiamo aggiunto queste u che sorta di riempiono. Ma sembra una declinazione. Sì, praticamente poi fa quello stesso, sì, è vero. E questo sì, appunto, come si diceva prima della distinzione dal nord al sud, dai due dialetti differenti, si ritrovano delle modifiche veramente importanti, cioè non sono banali, cambiano gli articoli, cambiano desinenze, tutta la parte fonetica di consonanti cambia tantissimo, per esempio tipo la D diventa... Ora aspetta, avevo degli esempi perché tanto detta così se no non si capisce. Ecco, per esempio, saludai in logudorese, in cagliaritano diventa salurai, perché la D si trasforma sempre in R. Un cambio fonetico, non da sordo, sonoro, ma no, completamente diverso. Sì, foneticamente completamente diverso, sono modifiche importanti. E poi sì, ci sono anche tanti altri aspetti, tipo... I pronomi relativi di persona, che sono soltanto due, chini per la persona, per esempio non esiste la forma del complemento indiretto del pronome relativo, quindi questa è roba parecchio. E questo no, però complicato. Con due ci caviamo tutta la parte che riguarda i pronomi e poi tutta la parte quella vocativa. Tipo il su di prima, l'articolo su si usa anche in senso vocativo per dire oh sa professoressa. Tipo, io sto qui a parlare di vocativi, di pronomi, passa uno, sa professoressa, come dico, a bella! Au. E quindi ecco. Poi che altro? Ma io direi ci piace anche... tanto il sardo. Sì, è molto molto bello, è difficilissimo ovviamente, io l'ho imparato appunto in contesto bilingue, quindi non... Non ti accorgi delle differenze? Non mi accorgo nemmeno essere. Di saperlo in realtà, soltanto quando lo vado a rileggere o a vedere nella grammatica dico, oi boh, guarda, questo lo so. Come penso succeda più o meno a chi ha appreso una lingua, ne ha competenze linguistiche senza averle propriamente studiate, come accade penso al 90% degli esseri umani, sì, che conoscono una lingua. Esatto, sempre per la nostra fantastica grammatica innata che abbiamo nella nostra testolina, come dice il grandissimo Chomsky. Chomsky, Chomsky, prima o poi riusciremo a portarla sì, in trasmissione, sì, assolutamente. Poi che altro? Ma io basta, finirei qui il tedio, avrei tantissime altre cose da dirvi, ma non è il caso. Io so dire voglia. Solo due parolacce in sardo, ma non le dico. Ah, ok, sicura, va bene. Sì. Cioè, una cosa bellissima invece quando per esempio uno starnutisce, oppure gli si vuole dare un po' del, come di, che ti si spacchi la testa, ok? Sì, c'è squartarau, che è tipo tu sia squartato, ok? Quindi, che so, uno starnutisce all'improvviso a voce alta, squartarau. Oppure batti la porta, fai un gran rumore, squartarau. Un po' il mammori toscano. Sì. Un augurio di trapassare. Sì, sì, praticamente sì. E basta, poi sì, direi basta così. Mi farò sentire a questo punto un pezzo, ovviamente. Un rap sardo vi tocca. Per sardo che hanno poi si free mai. Non comprendi si sta limba ma prova ma scuttai. La salivi gai de su zon cari fari spaziai. Momenti canna io in centimaba non dimorri mai. Canto un e lì studi narantam rajain. Sa che te può fai stere sa mesi in chizzo papà. Estesi a casino non rielo fragai. Fai a bravo narara babai. Chi no basta rassugare nanna. Giorni a padron fura a bicocai. Cosa che lui non sa comprendi mai. Genti de vita cara sa e birra. Genti scipra fari fini bella. Genti bella fara fine. Ogniamo androide sotti, ma lui se sa cucura ben su dessa motti muia andana i buzzurru su, fanti rapa sarda. Ma devo barru via le canti limba e nonna è da pazzu manna. Come di statua sa de monti brava. Dingli dingli dingli tru, alza sa mano, muovi sa gon che bu. Dingli dingli dingli bra, fare su rapa sarda e vita. Bada, seria, scappa, ogni avvento e corpo e marra conca, conca. Dingli dingli dingli tru, alza sa mano, muovi sa gon che bu. Dingli dingli dingli bra, fare su rapa sarda e vita. Bada, seria, scappa, ogni avvento e corpo e marra conca, conca. Ci vuoi, si scumitti u garra boys. Si cadeu avarru in noi, possa di de Sant'Antoni. Tu fai su chi oisi e non segui si scalloni. Si chi buffa sa con noso e sicuro cari goisi. E Deus è ancora in pei a sa fini de sa guerra. Invece tui di grocca sa pizzu su de la vedra. In muga si scesciau, pa pendi vai guetra. Sa candu se si arribau, non tu basti spesa a terra. Tu comprendi si ca, su vuoi du miu esti su sarru. E chi non fai sa bravo pungio a tipu garru. In toghi lu sa lingua mia tipu spagu. E chi non te braciu ti gozzo in tuga daciu. Mutto carabì, chi gusto canto di fare idromì. Vai go cari, oppure badai de sa notte sa dite. Mangiamo e ride, mangiamo e ride. Sa festa dei genti estivi, renali rocesti. Che aperta rascetti su carico. Prega non tengere la frago descarico. Chi non si giusciara pure su saburu. Dingli dingli dingli tru, alza sa mano, muovi sa gon che bu. Dingli dingli dingli bra, fare su la pasar de vita. Bada, seria, scappa, ogni avvento e corpo e marra conca. Conca, dingli dingli dingli tru, alza sa mano, muovi sa gon che bu. Dingli dingli dingli bra, fare su la pasar de vita. Bada, seria, scappa, ogni avvento e corpo e marra conca, conca. De pisi pisu de più su vogaro e sa gruta. Non si noi va pausu, sribo e qua la gusta. Chi pei si può sumari, sa zona non ste custa. Sa qua de vortice tua nanca esti sa prosciusta. Appo più ca sa vi sciocca lo anno te rinuda. Si gioca sa si braci in ti cundu valgu de vrupa. In sa bufara quadrenti con tua roghe durta. E chi da lassù vai, minci bufara sa muta. Dingli dingli dingli tru, alza sa mano, muovi sa gon che bu. Dingli dingli dingli bra, fare su la pasar de vita. Bada, seria, scappa, ogni avvento e corpo e marra conca, conca. Dingli dingli dingli tru, alza sa mano, muovi sa gon che bu. Dingli dingli dingli bra, fare su la pasar de vita. Bada, seria, scappa, ogni avvento e corpo e marra conca, conca. Custa è la pasarda, luminesa. Seria scappa, custa è rapa sarda, fluminesa, salta, bada, seria scappa, custa è rapa sarda, fluminesa, salta, bada, seria scappa, custa è rapa sarda, fluminesa, salta, bada, seria scappa. Ah, rieccoci. Allora vi lascerò con un detto, con un frastimmo. Lumbara e spistidara, che sta a dire fatta a pezzi e con la nuca fracassata, mamma mia. Questo viene da una grande tradizione. Sì, sì, sì, decisamente. E noi emiliani siamo bravi invece ad augurare le cose. Ah sì? tiene Nancy Dance, che tiene anche Anchor, tutte queste cose qua sono pesi. Pesantissime, per cui mi limito a questo. Siamo capaci di dirne Alvarol, il vaiolo, che tiene Alvarol. Sì, in Maremma c'è qualcosa di particolarmente cruento e cattivo? Maremmani in studio? Qui sono arrivati i maremmani. Sì, davvero, si sono, c'è la donata. Ce l'hanno con noi. Ma scuotono la testa, perché? I maremmani fanno paura con la faccia. Quindi, se ne conoscete sarà qualcuno... Sarà sempre più educato il cavallo. Benissimo, allora ci lasciamo così. Dovremmo sicuramente fare un'altra puntata sui dialetti, perché qui abbiamo ancora un sacco di cose da ascoltare, io ve lo dico. Benissimo, allora ciao. Ciao Rosa Maremmana, grazie mille grazie per la collaborazione, la grazie ospite. A chi ci ha mandato. Cittini, state bravi tutti, mi raccomando, non vi mettete a boticare fra di voi, state bonini, eh. Ciao. Come direbbero gli amici da quel della Val d'Orcia, fate i boncitti. I boncitti. E grazie buon a chi ha partecipato anche via SMS, via mail, eccetera, eccetera. Grazie per non avere vinto soprattutto le 10 pinte di birra che ci berremo noi. E ora l'ultimo pezzo per i grandi saluti, una piccola chicca del rap fiorentino. Questo è proprio una perla, un regalino che vi facciamo per essere stati così pazienti. Io non direi nemmeno chi è, perché tanto chi deve sapere. Brava. E chi non sa. Lui è mitico, io ve lo dico. Super colto, raffinatissimo. Allora godetevelo. A giovedì prossimo. A giovedì prossimo, ciao. 7.30, 19.30. Ciao! Ciao, ciao. Studiate, ciao. Studiate, mi raccomando. Mi raccomando, sì, sì. Senti le pianti nei denti, tetti anniti, termisti Trinity, dinamiche da dinamite, tetti dell'anni, tenti o petti, ti tieni a TNT, ti tieni. Senti le pianti nei denti, tetti anniti, termisti Trinity, dinamiche da dinamite, tetti dell'anni, tenti o petti, ti tieni a TNT, ti tieni. Pop, hop, hop, operazione Tritolo, in autostrada tritolo, shock dal primo al quinto quintale, è uno shock nazionale, in toto da penna, pentotale, nel totale, verbo, fermo, provo, con moto, tentacolare, fatracolare, sembra colare, ti fa incollare, mette il collare, anche al tuo compare, esplosivo, detonato, nota, la datana, scava, è come una cava, la fa brillare, vuoi volare? Mina dopo mina in culo un candelotto nel tuo cervello, creo il vuoto come una palla doppio, più che in 28 giorni dopo, virus di po' dal lato opposto, lotto, pizza al cillotto, senti che botto, ti la rizza, la piccia, inizia la caccia, la mia pazzia, è che non sai quanto è corta la vicenda, JCDC, mille lemmi, tieniti come JCDC, senti le tienti nei denti, te tieni, ti temisti. Treni di dinamiche da dinamite, tetti di lani, tenti o petti, ti tieni, tieni, ti, tu tieni. Senti le tienti nei denti, te tieni, ti temisti. Treni di dinamiche da dinamite, tetti di lani, tenti o petti, ti tieni, tieni, ti, tu tieni. Senti le tienti nei denti, te tieni, ti temisti. Treni di dinamiche da dinamite, tetti di lani, tenti o petti, ti tieni, tieni, ti, tu tieni. Senti le tienti. Denti, te tieni, ti temisti. Treni di dinamiche da dinamite, tetti di lani, tetti o petti, ti tieni, tieni, ti, tu tieni. Vai, qui è finito, eh. Ah, ok, oh, ma per andare su da Francesca Fiesole? Vabbè che ci metto 10 minuti da qua. No, ma a Fiesole, però su. Sì, no, sei matta, il salitone. No, no, vai qui giù alla fermata del 7 qua sotto, attraversi e... Attenta però, non quello in là. Questo qui dove c'è il barettino, proprio la fermata, la prima fermata del 7. Ciao.